viaggio con Easy Riders. Una t-shirt con il logo di Country Skyline e di Rock FM in regalo ai primi 100 che si prenoteranno alla serata di venerdì 23 maggio, Country Skyline Farewell Night. Una serata con i turnover sul palco del Milwaukee 50s Diner e un DJ set di Maurizio Faulisi. Invia subito una mail di prenotazione a info@milwaukeediner.it o telefono allo 0362 583 073. Il locale si trova a Varedo, in provincia di Milano, sulla superstrada Milano Meda. Informazioni su www.milwaukeediner.it oppure www.myspace.com/Maurizio Faulisi. Cosmic champion and I hold a mystic sign and the Eh sì, è proprio vero che le cose quando si fanno bene, si fanno bene. E se è altrettanto vero che questa era la sigla di Easy Rider in fascia serale in un lungo periodo della nostra carriera, è anche vero che la durata del pezzo non era mai rispettata, ma oggi l'abbiamo fatta ascoltare quasi nella sua interezza. Benvenuti, bentrovati, buona serata a tutti dalla voce di Mox Cristadoro. Il viaggio di Easy Rider inizia ufficialmente. Mi congratulo con Marco Garavelli per la sua trasmissione, sulla quale si è un po' dilungato. Parlo di Hard and Heavy, ma poco male, perché tanto il viaggio di Easy Rider non ha limiti, non ha confini, non conosce dogane, per cui non ci saranno neanche problemi di tempo. Allora, se partiamo con la città di New York, con i Blue Oyster Cult, io prima di inoltrare come consuetudine i contatti per raggiungermi, vi faccio subito ascoltare un brano. Il vinile è già pronto sul piatto, ci trasferiamo dall'altro lato degli Stati Uniti, quindi in California, dove ci sono i Tubes ad aspettarci con il loro secondo album, Young and Rich. Questo è il titolo dell'album, quindi giovane e ricco. Siamo nel 1976, pensate, e questa è una formazione seminale per il discorso relativo anche al punk. Considerate che erano in otto, questa è la traccia di apertura. Questo brano si intitola Tubes World Tour ed è un brano di apertura abbastanza classico per questa formazione di pazzi californiani che insomma andavano veramente oltre, soprattutto sul palco. Vedere i loro show era veramente un circo equestre, ma d'altronde a metà anni 70 questa tendenza era forte, era abbastanza radicata, e vi lascio immaginare quanto gli americani potessero essere capaci di massimalizzare anche questi aspetti, e quindi una commistione incredibile di generi, di suoni che i Tubes in maniera pressoché unica, forse erano assimilabili a certe cose di Zappa per certi aspetti, però per il resto erano assolutamente originali. Allora, 335-100-7777, lo conoscete a memoria ormai, il nostro numero di SMS, mox@rockfamily.it, piuttosto che mox@radiorockfm.com se dovesse tornarvi più comoda, il sistema è sempre quello. Un saluto a Kativik, che appunto dice di solito era Claudia che pagava dazio al programma di Garavelli, a te è sempre andata bene stasera, però anche tu ti sei visto rosicchiare una decina di minuti. Ma l'importante è, domani ci sei o no? Domani ci sono, certo che ci sono, domani sono in onda regolarmente in diretta, peraltro mi dai occasione di annunciare che domani sarà una puntata fantastica, una puntata familiare, perché sentirete tutto il cast che ha caratterizzato questa trasmissione, che si chiama Easy Rider, nell'ultimo anno di attività. Quindi ci sarà una rentrée occasionale, almeno così mi ha promesso, del regista, il famoso regista Ivan, che mi ha seguito per lunghi mesi durante questa avventura, e soprattutto ci sarà per la prima volta la partecipazione della redazione al completo di questo programma. Quindi di solito agiscono dietro le quinte, come è normale che una redazione faccia, ma domani sentirete anche per la prima volta le voci degli autori di questa trasmissione. Più che autori, magari una parola eccessiva, però insomma l'aiuto programmazione che un programma come questo necessita, con una piccola eccezione per uno dei due, Filippo, che è già intervenuto in un paio di occasioni, visto che mi ha portato anche degli ospiti. Detto questo, io sono pronto con il prossimo brano. Si cambia radicalmente linguaggio, ma si prende in mano ora uno dei dischi più importanti della storia del rock. È un disco del 1970, all'epoca erano solo in tre, ma vi garantisco che bastavano, perché erano dei talenti mostruosi. Si chiamavano Traffic, quindi traffico, e questa è John Barleycorn, Must Die, un classico rivisitato dal talento dei Traffic. There were three men came out of the west, their fortunes for to try. And these three men made a solemn vow, John Barleycorn must die. They've plowed, they've sown, they've harrowed him in, grown a long, long beard, and so become a man. So sharp to cut him off at the knee. They've rolled him and tied him by the waist, serving him most barbarously. Indiscutibile capolavoro che si chiama John Barleycorn Must Die, ovviamente un traditional riarrangiato dai Traffic, come tutti sanno, o quantomeno tutti dovrebbero sapere, ma Easy Rider è qui anche per questo. Siamo nel 1970, ovviamente Steve Winwood, Gene Capaldi, dei nomi fondamentali. Anche il prossimo nome è veramente grande a livelli in tutti i sensi, nel senso che è uno dei nomi più importanti, dei personaggi più talentuosi, ma anche più ricchi e più perseveranti del mondo della musica. Prima di annunciarvi di chi si tratta, voglio salutare un amico, Alberto, del quale leggo al volo il suo SMS che arriva al 335 100 7777 e dice: nonostante tutti i crucci della vita per così dire comune, quando sento le tue sigle, un moto gioioso mi coglie. Stasera la Gaina, traduco per i non milanesi, la sbronza, stasera la Gaina mi coglie, ma penso che comunque ascoltare questa trasmissione, nonostante lo stato fisico oppure mentale, possa solo fare del bene. Grazie Alberto per le tue corrette parole e sono certo che questa trasmissione ti faccia bene. A questo proposito saluto anche Hank che dice giustamente saluti dal bar, poi un saluto a Brutus che mi manda un invito per una serata beat e beer, quindi torniamo ancora sull'argomento alcolico. Non credo di essere la persona migliore, la persona più indicata per questo argomento, ma mi fa comunque piacere essere coinvolto a qualunque livello. Allora, dicevo, il prossimo nome, io quasi quasi non vi dico neanche di chi si tratta, vorrei che lo indovinaste, oppure se lo riconoscete perché avete a casa questo disco che comunque ha venduto milioni di copie, insomma, sarà piacevole ritrovare questa canzone che ha un titolo doppio perché è anche abbastanza lunga, Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding. Zigulì, la mitica pallina è diventata grande con te. Ti ricordi quando eri piccolo che mangiavi le Zigulì? Sei cresciuto, ma il gusto di Zigulì ti rapisce ancora. Oggi le buonissime caramelle le puoi trovare nei gusti frutta, liquirizia e cioccolato, anche in comode confezioni pocket. Chiedile al tuo bar. Zigulì, il mito non si scorda mai. Rock FM Spot. Ecco, i nostri clienti giapponesi sono arrivati. Già, e guarda che abito a uno dei due. Non ti fa ridere? Però le scarpe sono molto belle. Tokido na yesa ka kupa vegano. Tokido che? Ma che dice? Dice che hai delle scarpe orribili. Si vede che non vai da Vigano Calzature. Vigano Calzature, splendide collezioni di scarpe eleganti e sportive per tutta la famiglia. A Sesto San Giovanni, viale Casiraghi 115, metropolitana 1, Sesto Rondò. Na yesa ka kupa vegano. Sì, ho capito. Vigano Calzature. State ascoltando Easy Rider.

ovviamente la voce, il pianoforte e tutta l'orchestrazione erano riconducibili in maniera inequivocabile a Elton John, ritrovato con Funeral for a Friend, tra parentesi Love Lies Bleeding, ossia il grande brano di apertura di Goodbye Yellow Brick Road, suo album del 73, doppio album, ricordiamo, con una copertina apribile, insomma uno di quei vinili da collezione per quanto riguarda tutti i grandi cultori della storia del rock, insomma questo è sicuramente rientra tra gli imprescindibili. Poi è chiaro che Elton John ha una carriera molto vasta, fasi alterne, ma sicuramente, indiscutibilmente, ripeto, un grandissimo talento. Allora, io ieri sera vi avevo annunciato un brano particolarmente importante. Sappiate che sta per arrivare questo brano, però prima voglio farvene sentire un altro, e prima ancora voglio salutare un amico, Leonardo, che scrive a mox@radiorockfm.com e parla di un certo David Soul, che è il nome d'arte di David Solberg. Questo è l'argomento che lui vuole affrontare con me. E dice: è stato in cima alle classifiche inglesi nell'anno 1977 con singoli come Don't Give Up on Us o Going In With My Eyes Open. E per curiosità, questa è la stessa persona che interpretava la parte di Hutch nella serie Starsky and Hutch. Tu hai materiale suo? Ne avevi mai sentito parlare? Bada, che Hutch, ovviamente anch'io fruivo di questa molto carina serie televisiva quando ero giovane, più che altro ero infante, e sapevo però che Hutch era anche nella vita un cantante country pop. Sicuramente il nostro Faulisi è in possesso di suo materiale, ma ahimè io no, non ho suo materiale, però potrebbe anche essere che prima o poi anch'io ne entri in possesso. Va bene, questa era la mail di Leonardo, che ripeto, secondo me fa una simpatica segnalazione. Poi l'appello a Roberta Di Lugo viene rifatto anche questa sera da parte dell'amico Prog Rock, quindi siamo dalle parti della Romagna. Mi chiede scusa, ma non è un problema. C'è un messaggio per lei a Dischi Equinox in via Mentana 27, si vede che non è andata a ritirarlo. Dopodiché non te lo leggo più, perché potrebbe anche essere che se lei è in ascolto e non ci va, ci sarà un motivo, però non voglio entrare nel merito degli affari vostri. Va bene, allora io proseguirei con la musica. Vi ho detto, tra un po' arriverà questo brano straordinario di cui vi parlerò, però per ora, come aperitivo, mi metto un altro brano altrettanto straordinario. Si chiama Dream Brother, quindi fratello sogno o fratello del sogno o sogno del fratello, insomma leggetela come volete. Lui era, è il caso di dire, Jeff Buckley, però dal vivo nel 1995, quindi per ora ascoltiamoci questa bellissima versione di Dream Brother. Watching over them with his La città era quella di Amburgo che vedeva protagonista sul palco Jeff Buckley. Il giorno era il 22 febbraio del 1995 e il pezzo è veramente sognante, come promette il titolo. Dream Brother, tratto tra l'altro da un album totalmente reperibile, Mystery White Boy. Ovviamente ricordiamo che l'unico album in studio fatto e finito per la carriera di Jeff Buckley fu Grace dell'anno precedente, quindi del 94. Io sono come al solito molto felice e molto orgoglioso del pubblico che questa radio merita, quindi ringrazio e saluto il sempre presente, puntuale con le sue informazioni, amico genovese Anton, che dice: il biondo David Soul ogni tanto, anche durante i telefilm, cantava e suonava la chitarra e ha fatto almeno 5 LP, quindi 5 album, all'inizio degli anni 60. Gioca a baseball. Ecco, questa è l'informazione che arriva relativamente a Dutch, e la cosa carina è vera. Io mi ricordo benissimo che c'era qualche puntata in cui lui imbracciava la sua acustica e dilettava probabilmente il pubblico con delle sue song, e la cosa insomma era un po' in contrapposizione con la figura del poliziotto intelligente e assolutamente preparato, infallibile, insieme al suo compagno di viaggio Starsky. Bella la piega di questa sera, mi piace. L'amico Frinz 78 invece dice: hai scelto uno dei miei pezzi preferiti, grande Jeff Buckley, quindi Dream Brother ben apprezzata. D'altronde insomma è un pezzo che è una garanzia. Poi soprattutto ricordiamo che la fascia oraria in cui sta andando in onda Easy Rider adesso è assolutamente più consona, come abbiamo detto più volte. Voglio salutare il fanello che fa una citazione molto divertente che vi risparmierò. Una citazione che vabbè insomma non è radiofonica perché è veramente demenziale, sarebbe degna del maestro Fricantoni. Invece vi faccio ascoltare il pezzo che è tutt'altro che demenziale. Allora, questo pezzo io lo trasmisi già nel gennaio del 2003 in occasione della scomparsa di uno dei più grandi artisti, si può dire, di fama nazionale, ma insomma di una caratura veramente internazionale. Il disco in questione, il vinile in questione, fu pubblicato e fu ritirato con una certa immediatezza dalle vendite, in quanto ritenuto eccessivo nella sua, ovviamente per il ben pensante, per il potere, nella sua scorrettezza politica, quindi politicamente scorretto. In più non piacque il riferimento divino, che qui è usato ovviamente come metafora. Chi ascolta, io vi invito veramente ad ascoltare con molta attenzione il prossimo pezzo di teatro che sto per proporvi. Era il 1980, quindi si parla di una situazione storica relativa proprio a quel periodo, molto attuale in quel periodo, ma se ci fate bene attenzione, se ci fate ben caso, cambiando magari qualche nome, la situazione non è variata granché, e questo è un classico per Giorgio Gaber. Questa era Io se fossi Dio, questa è Easy Rider. Io, se fossi Dio, e io potrei anche esserlo, se no non vedo chi. Io, se fossi Dio, non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, non sarei mica un dilettante, sarei sempre presente, sarei davvero nel luogo a spiare, o meglio ancora a criticare, appunto, cosa fa la gente. Per esempio il piccolo borghese, come noioso, non commette mai peccati grossi, non è mai intensamente peccaminoso. Del resto poverino è troppo misero e meschino, e pur sapendo che Dio è più esatto di una sfeda, lui pensa che l'errore piccolino non lo conti o non lo veda. Per questo io, se fossi Dio, preferirei il secolo passato. Se fossi Dio, rimpiangerei il furore antico, dove si odiava e poi si amava e si ammazzava il nemico. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, non sarei così coglione a credere solo ai palpiti del cuore, solo agli alambicchi della ragione. Io, se fossi Dio, sarei sicuramente molto intero e molto distaccato, come dovreste essere voi. Io, se fossi Dio, non sarei mica stato a risparmiare, avrei fatto un uomo migliore. Sì, vabbè, lo ammetto, non mi è venuto tanto bene, ed è per questo, per predicare il giusto, che io ogni tanto mando giù qualcuno, ma poi alla gente piace interpretare e fa ancora più casino. Io, se fossi Dio, non avrei fatto gli errori di mio figlio, e sull'amore e sulla carità mi sarei spiegato un po' meglio. E non è mica normale che un comune mortale, per le cazzate tipo compassione e fame in India, c'ha tanto amore di riserva che neanche se lo sogna. Che viene da dire, ma dopo come fa a essere così carogna? Io, se fossi Dio, non sarei ridotto come voi, e se lo fossi io certo morirei per qualcosa di importante. Purtroppo l'occasione di morire simpaticamente non capita sempre, e anche l'avventuriero più spinto muore dove gli può capitare, e neanche tanto convinto. Io, se fossi Dio, farei quello che voglio, non sarei certo permissivo, bastonerei mio figlio, sarei severo e giusto, stravrederei gli inglesi come mi fu chiesto, e se potessi anche gli africanisti e l'Asia, e poi gli americani e i russi, bastonerei la militanza come la misticanza, e prenderei a schiaffi i volteriani, i ladri, gli stupidi e i bigotti, perché Dio è violento, e gli schiaffi di Dio appiccicano al muro tutti. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Finora abbiamo scherzato, ma va a finire che uno prima o poi ci piglia gusto e con la scusa di Dio tira fuori tutto quello che gli sembra giusto. E a te ragazza che mi dici che non è vero che il piccolo borghese è solo un po' coglione, che quell'uomo è proprio un delinquente, un mascalzone, un porco in tutti i sensi, una canaglia, e che ha tentato pure di violentare sua figlia. Io come Dio inventato, come Dio fittizio, prendo coraggio e sparo il mio giudizio e dico: speriamo che a tuo padre gli sparino nel culo, cara figlia. Così per i giornali diventa un bravo padre di famiglia. Io se fossi Dio maledirei davvero i giornalisti, e specialmente tutti, che certamente non sono brave persone, e dove cogli, cogli sempre bene. Compagni giornalisti, avete troppa sete e non sapete approfittare delle libertà che avete. Avete ancora la libertà di pensare, ma quello non lo fate, e in cambio pretendete la libertà di scrivere e di fotografare immagini geniali e interessanti di presidenti solidari e di mamme piangenti. E in questa Italia piena di sgomento, come siete coraggiosi voi che vi buttate senza tremare un momento. Cannibali, necrofili, deamicisiani e astuti, e si direbbe proprio compiaciuti, voi vi buttate sul disastro umano col gusto della lacrima. In primo piano. Sì, vabbè, lo ammetto, la scomparsa dei fogli e della stampa sarebbe forse una follia. Ma io, se fossi Dio, di fronte a tanta deficienza, non avrei certo la superstizione della democrazia. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io, se fossi Dio, naturalmente io chiuderei la bocca a tanta gente. Nel regno dei cieli non vorrei ministri e gente di partito tra le palle, perché la politica è schifosa e fa male alla pelle. Tutti quelli che fanno questo gioco, che poi è un gioco di forze riputante e contagioso come la lepre e il tifo. E tutti quelli che fanno questo gioco hanno certe facce che a vederle fanno schifo, che siano untuosi democristiani o grigi compagni del PC. Sono nati proprio brutti, o perlomeno tutti finiscono così. Io, se fossi Dio, dall'alto del mio trono vedrei che la politica ha un mestiere come un altro. E vorrei dire, mi pare Platone, che il politico è sempre meno filosofo, è sempre più coglione. È un uomo tutto tondo che senza mai guardarci dentro scivola sul mondo, che scivola sulle parole anche quando non sembra o non lo vuole. Compagno radicale, parola compagno, non so chi te l'ha data, ma in fondo ti sta bene, tanto ormai è squalificata. Compagno radicale, cavalcatore di ogni tigre, uomo furbino, ti muovi proprio bene in questo gran casino, e mentre da una parte si spara un po' a casaccio e dall'altra si riempiono le galere di gente che non c'entra un cazzo. Compagno radicale, tu occupati pure di diritti civili e di idiozia che fa democrazia, e preparaci pure un altro referendum, questa volta per sapere dov'è che i cani devono pisciare. Compagni socialisti, ma sì, anche voi insinuanti, astuti e tondi, compagni socialisti, con le vostre spensierate alleanze di destra, di sinistra, di centro, coi vostri uomini aggiornati, nuovi di fuori e vecchi di dentro, compagni socialisti, fatevi avanti, che questo è l'anno del gavottano rosso e dei soli nascenti. Fatevi avanti col mito del progresso e con la vostra schifosa ambiguità. ringraziate la dilagante imbecillità. Ma io non sono ancora nel regno dei cieli, sono troppo invischiato nei vostri sfaceli. Io se fossi Dio non avrei proprio più pazienza, inventerei di nuovo una morale e farei suonare le trombe per il giudizio universale. Voi mi direte perché così parziale il mio personalissimo giudizio universale, perché non suonano le mie trombe per gli attentati, i rapimenti, i giovani drogati e per le bombe. Perché non è comparsa ancora l'altra faccia della medaglia. Io come Dio non è che non ne ho voglia. Io come Dio non dico certo che siano ingiudicabili, o addirittura come dice chi ha paura, gli innominabili. Ma come uomo, come sono e fui, ho parlato di noi comuni mortali. Quegli altri non li capisco, mi spavento, non mi sembrano uguali. Di loro posso dire solamente che dalle masse sono riusciti ad ottenere lo stupido pietismo per il carabiniere. Di loro posso dire solamente che mi hanno tolto il gusto di essere incazzato personalmente. Io come uomo posso dire solo ciò che sento, cioè solo l'immagine del grande smarrimento. Però se fossi Dio sarei anche invulnerabile perfetto, allora non avrei paura affatto, così potrei gridare, griderei senza ritegno che è una porcheria, che i brigatisti militanti siano arrivati dritti alla pazzia. Ecco la differenza che c'è tra noi e gli innominabili. Di noi posso parlare perché so chi siamo, e forse facciamo più schifo che spavento. Di fronte al terrorismo a chi si uccide c'è solo lo sgomento. Ma io se fossi Dio non mi farei fregare da questo sgomento, e nei confronti dei politicanti sarei severo come all'inizio, perché a Dio i martiri non gli hanno fatto mai cambiar giudizio. E se al mio Dio che ancora si accalora gli fa rabbia chi spara, gli fa anche rabbia il fatto che un politico qualunque, se gli ha sparato un brigatista, diventa l'unico statista. Io, se fossi Dio, quel Dio di cui ho bisogno come di un miraggio, ci avrei ancora il coraggio di continuare a dire che Aldo Moro, insieme a tutta la Democrazia Cristiana, è il responsabile maggiore di 20 anni di cancrena italiana. Io, se fossi Dio, un Dio incosciente, enormemente saggio, avrei anche il coraggio di andare dritto in galera. Ma vorrei dire che Aldo Moro resta ancora quella pancia che era. Ma in fondo tutto questo è stupido, perché logicamente io, se fossi Dio, poterla vedrei piuttosto da lontano. E forse non ce la farei ad accalorarmi in questo scontro quotidiano. Io, se fossi Dio, non mi interesserei di odio, di vendetta, neanche di perdono, perché la lontananza è l'unica vendetta, è l'unico perdono. E allora va a finire che se fossi Dio io mi ritirerei in campagna come ho fatto io. Non saprei molto come rientrare dopo un momento così intenso, un momento così importante, ma Sicuramente posso aggiungermi al coro degli amici che durante l'ascolto di questo brano che si intitolava Io se fossi Dio, e ci tengo a ricordarlo, era datato 1980 e ebbe dei problemi di censura, come anche intuibile, nonostante appunto fossero insomma tempi in cui la censura teoricamente non doveva più esistere. Io ho scoperto di avere molti amici ovviamente in questo momento, cioè voglio fare i nomi di alcuni che scrivono al 335-100-7777 come Adri65, un altro anonimo che si limita a menzionare il nome di Gaber, poi Giorgio da Firenze, il Tanca, Marco Sarca, Antlon che si complimenta, Andre. Poi abbiamo Edi da Bresso, poi abbiamo il Fungo che dice grandissimo Gaber, la nostra generazione ha perso, non la sua, ma su tutti, devo dirlo, sarà una sorpresa anche per lui, un amico livornese che si chiama Enrico, che ha colto la frase, te lo giuro Enrico, con la quale io sarei rientrato a parlare dopo questo pezzo, ringraziate la dilagante imbecillità. Forse il più grande autore italiano, commenta Enrico. E, anch'io in questo momento al riascolto ennesimo di questa canzone che amo ed apprezzo da sempre, mi sono proprio soffermato su quella frase, ringraziate la dilagante imbecillità. E allora i prossimi si chiamano Cradle of Filth e ve li faccio sentire perché di solito siete abituati ad ascoltare uno stacchetto, un jingle di questa programmazione, di questa trasmissione che si chiama Easy Rider, e adesso vi faccio sentire la canzone intera dalla quale è stata estrapolato. Si intitola The Forest Whisper My Name, quindi la foresta sussurra il mio nome. Loro sono inglesi, siamo nella prima metà degli anni 90, questo è il loro album d'esordio, Cradle of Filth. We'll be right back. The Forest Whispers My Name. Questo era l'album d'esordio degli inglesi Cradle of Filth ed era il 1994. Ricordo il titolo di questa pietra miliare del black metal sinfonico. Per quanto il black metal fosse una prerogativa ben radicata in terra norvegese, diciamo che in Inghilterra, insomma, i Cradle of Filth hanno tenuto altissima la bandiera di questo genere. The Principle of Evil Made Flesh è il titolo proprio dell'album d'esordio per questo sestetto, all'epoca sestetto inglese. Quindi ricordiamo Cradle of Filth, bellissimo quell'inizio che io ho sfruttato tagliandolo come jingle per questa trasmissione, per cui un momento così non tanto autocelebrativo, perché in fondo è un lavoro che hanno fatto il Cradle of Filth che non ho fatto io, però mi piaceva moltissimo. E poi lo sviluppo del brano ovviamente va in tutt'altra direzione. Allora, io voglio ancora salutare e ringraziare chi continua a scrivere al 335-100-7777. Riprendiamo in mano i messaggi di alcune di voi, quindi partiamo da Sixteen che dice: grandissimo, ovviamente l'argomento è ancora quello di prima, cioè il brano di Gaber, Io se fossi Dio. Dice: lui ha una di quelle sincerità così dirette che troppo spesso vengono soppresse, adesso ci si gira intorno alla verità e alle menzogne. Poi Veronica dice: tra quelle che adoro di Gaber c'è Il Dilemma, anzi dopo mi riascolto l'album, l'anonimo di prima ero io, Veronica. Poi sì, Il Dilemma è un altro bel pezzo ed è esattamente dello stesso anno di Io se fossi Dio. Voglio rispondere a Simona che dice: grazie per quello che ha appena trasmesso, l'ho ascoltata la prima volta grazie ad un amico l'anno scorso e rimasi ammutolita, consapevole di aver ascoltato qualcosa di meraviglioso. Come si chiamava il disco ritirato? Allora, in realtà il disco è molto particolare perché è proprio Io se fossi Dio. Era un mezzo LP, nel senso che la canzone che avete sentito, essendo lunga, occupava l'intera facciata di un LP. Sull'altra facciata non c'era niente, quindi è proprio un disco mono canzone ed è stato pubblicato e poi è stato ritirato. In realtà la canzone poi si trova in una versione live, almeno si trovava, io credo che comunque sia ancora in commercio quell'album in CD di Gaber del 1981, Il Teatro di Giorgio Gaber, con la copertina nera. Ecco, lì c'è una versione bella, esattamente identica a questa di Io se fossi Dio. Poi chi altri abbiamo? Abbiamo Giulia Rocker, amica di Forlì. Apprezzo molto i Cradle, li trovo straordinariamente suggestivi, anche se tra le mie preferite c'è una cover che hanno fatto degli Iron Maiden. Ottimo Gaber, è stato un momento stupendo. E poi mi chiede se sono arrivate le foto di Russi. Guarda, ne sono arrivate tantissime, quindi credo anche le tue. Un abbraccio circolare ricambiato. Tanca, anni 80, censura Gaber, sopprimere un pensiero per valorizzarne il valore. Beh, buona riflessione anche questa. Diciamo che la tecnica della censura è a suo modo molto pubblicitaria, però in realtà è quello che avvenne. Poi è chiaro che all'epoca lui se la prese con Aldo Moro, in realtà ci sono moltissimi nomi che potremmo sostituire anche allo stato attuale delle cose al posto di quello che è preso metaforicamente. Va bene, io ho preparato il prossimo pezzo, direi di sì, si torna grosso modo alla normalità, quindi alla grande storia del rock, andiamo in America. Nel 1968, quindi la bellezza di 40 anni fa, album d'esordio per gli Spirit, lo Spirito Quintetto che, per chi non lo sapesse, ha influenzato anche i Led Zeppelin, che sono stati in tour con loro proprio alla fine degli anni 60. Allora, dal primo album io vi faccio riascoltare questo Mondo Meccanico, Mechanical World. Thank you. Dal lontano 1968, ritrovati con il loro mondo meccanico, quindi Mechanical World, album d'esordio omonimo, tra l'altro con una copertina assolutamente geniale, una parte grafica che forse per le prime volte ritraeva un volto solo, un volto umano, però in realtà un collage composto da alcune parti, alcuni spezzoni del volto dei componenti della band, quindi suggestivo anche a livello grafico. Allora io vorrei leggere al volo il breve ma intenso contenuto della mail dell'amico Alfonso dalla città di Firenze, che dice: come vorrei avere in questo esatto momento un dispositivo capace di cortocircuitare tutte le radio e le televisioni d'Italia a Rock FM. Te lo immagini? Io, se fossi Dio, a reti unificate e universalmente trasmessa a tutti. Questa è una bellissima idea ed è quello che in questo momento più di ogni altra cosa meriteremmo, insomma. Poi un messaggio di un amico, Ciro48, che dice: grande Randy California, hanno insegnato a molti. Effettivamente Spirit si va veramente nella parte seminale della storia della musica rock, proprio con, non a caso, bands americane. Allora, io sto per osare un'altra volta, però anche questo modo di osare sono certo che incontrerà moltissimo il gusto di tutti voi, della maggior parte di voi. Faccio partire già in sottofondo quello che sta per succedere tra poco. Si parla di un brano che ho già avuto la forza e il piacere di trasmettere. Ecco che parte. I più attenti di voi riconosceranno lo stile di David Gilmour. Questa è Icos e io ci tengo a farvela sentire, anche perché in questa fascia oraria non ci sono più problemi, anzi, possiamo solo godere della grande musica, e allora io sono qui per questo. Icos, ovviamente 1971, ovviamente l'album era Meddle e ovviamente loro erano i Pink Floyd. sfumano così gli echi dei Pink Floyd, gli echi del 1971. Come era prevedibile, decine di messaggi arrivati all'ascolto di questo pezzo di storia della musica. Non ho ancora finito di emozionarmi e di farvi emozionare questa sera. Una rapida carrellata dei nomi quantomeno che scrivono al 335-100-7777 piuttosto che a mox@radiorockfm.com. La mail di Rock Family la leggerò dopo in differita. Il primo saluto a Luca, che dice peraltro anche: Egle, dove sei? Sei tornata? Always love. Quindi questo è un messaggio d'amore, come se fossimo a Stranamore, e la cosa comunque mi riempie di gioia e di orgoglio, soprattutto quando c'è un sottofondo di questo tipo. Vale da Pisa dice: occhi chiusi e lasciarsi trasportare. Mi chiede se ho letto l'appello per Rebeldia, e no, non è ancora successa questa cosa. Andrea patentato 147 è l'altro amico che scrive, dice: non esiste un programma come il tuo da nessuna parte, dici che... ecco, intanto sta partendo qualcosa che non dovrebbe partire, ecco. Scusate, queste sono... è arrivato Faulisi con una banda di tipo 8 persone che dopo suonerà dal vivo, e allora sarà festa anche dalle 11 a mezzanotte, ma nel frattempo c'è stato un cambio tecnico che mi ha un attimino colto impreparato. Allora, dicevo, Andrea ha patentato 147, insomma, dici che ti ritroveremo da qualche parte, anche di notte, su Radio Maria. Guarda, è auspicabile questa cosa. Enrico da Livorno dice: no words, no, nessuna parola, il lato B più bello dell'intera storia del rock, un parere condivisibile direi. In Irlanda per 2235 km on the road con i Pink Floyd, resetta. Fish da Genova dice: grande Gaber, ma Icos, con Icos non so più cosa dire. Va bene, è chiaro che le emozioni che la musica fa scaturire sono sempre tantissime. Camarilla manda un messaggio che voglio leggere, anche se è un po' lungo, ma è veramente psichedelico ed è in linea con la musica che abbiamo appena ascoltato. Ricordo che la prima volta che ascoltai questa canzone chiusi gli occhi, e quanto ipnotica la chitarra di Gilmour, disegna arabeschi di note e si apre, prima dell'ultima strofa sull'infinito. Ebbi chiara una specie di visione, vidi riflessa nella mente la nebulosa testa di cavallo, viola e potente, agglomerato di stelle, e ti assicuro che il merito fu solo della musica. Anche questa volta, uno dei miei pezzi preferiti, sembra che ci conosci da sempre. Puoi dirlo, è assolutamente così. Dan 76, anche lui brividi per l'ascolto della chitarra di Gilmour. Kativik commenta: John Barleycorn Must Die, Funeral for a Friend, Io se fossi Dio, lo spirito di Randy California, anche stasera, Icos, di capolavori del rock, e come al solito, grazie. Grazie anche a te per il tuo elenco che mi ha ricordato quello che è successo stasera. Lyclox dice: lo fa solo a me o sto rivivendo Erased di Lynch? Ecco, questo è l'altro effetto che può causare l'ascolto. E mi da Firenze dice: magia pura a quest'ora, effettivamente godiamo finché possiamo di questo orario. L'altro amico, Roby da Caravaggio, puntuale, Pink Floydiano da sempre, ha la pelle d'oca, uno dei suoi pezzi preferiti, immagina chiudendo gli occhi Dave, Roger, Richard e Nick in mezzo alla polvere dello splendido anfiteatro di Pompei. E così l'amico Roby menziona anche quello che è il mio film musicale preferito di sempre. Il Bonnie dice: solo un pazzo manda in onda Icos, vedi di passare dalla Family, sei il solo che latita. Sì, forse ti riferisci al fatto che non sono molto disponibile a livello di tempo, a livello di pratica, con quella che è l'interazione, i blog e queste cose. Però insomma, finché c'è la radio sono sempre con voi. L'ultimo è Fabri, dice: sulle note dell'intramontabile Icos dei Pink Floyd ho deciso di scriverti, del resto i tuoi gusti musicali mi sono noti fin dagli anni Ottanta. Questo è un amico dell'Itis, quindi mi fa piacere che mi scriva, perché rievoca bei tempi andati. E tra l'altro la sorpresa è che dopo col Faulisi c'è anche un noto chitarrista milanese che all'epoca aveva l'onore e il piacere di essere uno dei miei insegnanti, che ho avuto anch'io il piacere di ritrovare questa sera. Va bene, vi lascio con... si chiama Sergio, comunque ve ne parlerà Maurizio dopo. Io voglio farvi... ci tengo a farvi sentire l'ultima canzone. Canada, Triumph, questa è In the Night, e non è un caso, perché è proprio notte. the darkness. Love can grow, or love will die. Such a strange situation. Thought I heard somebody cry. Disillusion and despair. I think I need some consolation. I think I need someone to care. We'll be right back. In the night, commozione è la parola giusta all'ascolto di canzoni come questa. Erano i Triumph dal loro album, uno dei loro migliori, Progressions of Power. E io voglio ringraziare anche Maurizio per la sua pazienza, per avermi concesso questo minuto e mezzo in più per l'ascolto di un grande brano. Tutti voi all'ascolto siete come al solito degni del più grande affetto, del mio abbraccio circolare. Gli ultimi a scrivere sono Andrea, che purtroppo si è perso Io se fossi Dio, e se ne rammarica, e poi Marzia, che insomma dice che la mia compagnia è sempre splendida, ma lo è anche la vostra, e lo sarà quella di Maurizio adesso con i suoi ospiti. Noi ci risentiamo domani per una puntata speciale di Easy Rider ribattezzata in famiglia. Io vi auguro la migliore delle nottate e vi lascio nelle sapienti mani di Maurizio Paulisi. È che tutti hanno paura, ecco cos'è successo. Noi non possiamo neanche andare in uno di quegli alberghetti da due soldi. Voglio dire, proprio di quelli da due soldi, capisci? Credono che si vada a Scannabio o qualcosa. Hanno paura. Sì, ma non hanno paura di voi. Hanno paura di quello che voi rappresentate. Ma guarda, per loro noi siamo solo della gente che ha bisogno di tagliarsi i capelli.